La grossa novità di questa iniziativa è che a un certo punto un impegno congiunto di Francia, Brasile, Spagna e Cile ha fatto in modo che venisse dato mandato al Ministero della Finanza francese per preparare uno studio e una relazione, e questa relazione ha individuato quattro assi di intervento per tassare una quota di risorse a livello a questo punto internazionale e per generare un gettito, quindi cioè fare cassa, incassare denari per redistribuirli su una serie di iniziative che erano il titolo dell'ONU, il Millennium Gold. Allora, i quattro assi sono la tassazione dei trasporti aerei e marittimi, la transazione finanziaria e quindi il progetto Tobin Tax, che in Francia è una delle nazioni che ha già approvato il progetto di legge, poi la tassazione sui profitti delle multinazionali e il quarto è un ragionamento sulla tassazione delle armi. Mi chiedevi un giudizio politico, va letto in una duplice accezione secondo noi, cioè come Attacchi Italia abbiamo fatto questo tipo di valutazione. Da un punto di vista evidentemente è un risultato, perché Chirac ha presentato questo progetto a 55 capi di Stato. Il significato politico è che finalmente, come dire, c'è stata una volontà di trattare ai livelli alti il problema, scavalcando quella quota di veti importanti come quello americano. Quindi questo senz'altro è un segnale che farà smuovere a volano, tornando indietro, tutta un'altra serie di procedure. Credo che sarà più semplice dopo questo tipo di iniziativa che le singole nazioni che stanno valutando la proposta della Tobin Tax, come ad esempio l'Italia, dove la Tobin Tax ha finito l'iter alla Commissione riunita Finanza ed Esteri, possa fare questo scatto e diventare un altro paese di quelli che aderisce. Poi c'è una valutazione invece nel merito, e nel merito quello di cui prendiamo atto è senz'altro che si parla per la prima volta con capofila uno dei paesi ricchi, la Francia, si parla di redistribuzione della ricchezza. Però ci sembra anche di prendere atto, come dire, cioè, che di fatto noi riteniamo che debba essere assolutamente più alto il montante ideale, cioè il percorso per cui si arriva ad avere consapevolezze che questa forbice, questo divario tra il nord e il sud del mondo deve essere colmato utilizzando tutta un'altra serie di misure e di iniziative. E il secondo dato che assolutamente non ci piace è la tassa sulle armi, perché la tassa sulle armi è di fatto la legittimazione della fabbricazione delle armi, cioè da tempo ci battiamo con la legge 150 e poi il tentativo di abrogarla, e quindi stiamo lavorando da tempo sia in rete europea che a livello italiano, dando la caccia alle banche armate, eccetera, eccetera. Un'idea di una tassazione sulle armi che in prima battuta sembra voler mettere un piccolo freno ai loro utili, ai loro fatturati, però di fatto ottiene anche il risultato che c'è proprio la legittimazione del mercato delle armi. Si sta andando a modificare una fase storica. In questa fase storica il ruolo del movimento è stato un ruolo veramente centrale ed importante, perché è riuscito a far passare una serie di campagne e una serie di principi.